ciao. Adesso giocati con la bagaglia, non la tua, ciao. C'è la spoglia d'oro che diciamo, mi stanno chiamando alle 10. Sto modulando. Che telefono, che devo svegliare qua la bagazzone di tua madre. Attacca il telefono, eh?